Sì, Eva. Oh, Giulio. E cosa è successo? È un miracolo, Giulio. Quasi un miracolo. Devo pensare che forse era fatto, ma forse si sono stancati definitivamente questa volta gli amici della frequenza. Ma io tutte le sere accendevo e chiamavo più volte e nessuno mi ha mai risposto. Sono un cretino che fischia, però non parla mai. Infatti ieri l'ho mandato anche in quel posto. Perché mi ha fatto incavolare, non fa altro che fischiare questo deficiente. Oh, è un segnale bassissimo, mica io faccio la malapena ad ascoltare. Però non parla mai, fischia, lì dice avanti chi è, e fischia di nuovo e così via. E allora Marco, come va? Beh, se dicessi bene, buonasera Giulio, l'hai sentito? Se dicessi bene ti direi una bugia. Non sto andando al mare perché non me la sento, proprio non. Si sente, sono un po' a pezzaretti, un po' a terra. Forse prossima settimana vedrò. Il baracchino, io non sto quasi più accendendo, ogni tanto accendo, faccio il giro di 40 canali, ma è deserto. E l'intenzione mia era di. Proprio ero sul punto di levare tutto, togliere il baracchino, togliere il ricevitore, perché tanto anche i radioamatori sono più che altro in digitale la maggior parte delle volte, togliere tutto, liberare questo piccolo portatelefono, liberare quest'angolo, dai. E buon viaggio, mi. Tanto non c'è più la voglia, nemmeno la parte mia, francamente, non ce n'è più voglia. Io ho pensato, ma la gente adesso se ne va al mare, perché stare davanti al baracchino c'è anche caldo, e dopo un po' di tempo, dopo 10 minuti, cominci anche a sudare davanti al baracchino, non è piacevole stare. E allora ho pensato quello, ma come succede per me, anche per gli altri, senz'altro, e la gente se ne va in giro, se ne va al mare, io non ci vado al mare, la verità. Per cui non mi interessa. E devo dirti, io tutte le sere, immancabilmente, lo chiamo fino a 2, 3, 4 volte chiamo, anche ad orario intervallato, magari adesso, dopo 10 minuti, dopo altri 10 minuti e così via. Però niente, non risponde mai nessuno, ripeto, in fuori quel cretino che fischia e basta, fischia, e che mi piace la musica. Sì, ma ho notato che anche sul 23 è completamente abbandonato, persino in PMR non sento più nessuno, a meno che non dipenda da me, può darsi pure che dipenda da me, però credo che anche lì non sia più nulla. No, non dipende da te, no, anch'io non sento nessuno in PMR, raramente, ma qualche volta veramente, Dio Maria, qualche volta, ma io non ci sto parlando più nemmeno in PMR, lì. Sono qualche mese io senza parlare di PMR, però accendo così per curiosità, magari per ascoltare sul 23, cioè su quel canale lì, cioè quelli del 23, se ci sono, ma nemmeno loro ci sono, non ci sono mai. Anzi, per essere sincero, quando è un 4-5 giorni fa, proprio il PMR ho fatto la chiamata per Marino, non mi ha risposto, io ho chiuso subito, per cui non mi ha risposto nessuno. Pertanto non sono stato lì a perdere tempo, tanto no, se non mi risponde la prima e la seconda chiamata vuol dire che non c'è finito. Sì, io ho acceso proprio in questo momento, ho fatto il giro di 40 canali, c'era gente da FM su 40 dintorni. E poi ho sentito una portante qua, ho detto, ma cosa è successo? E vabbè. Dunque la 27, te l'ho detto Giulio, è destinata a sparire, perché è una cosa davvero anacronistica, eccetera. Poi telefonicamente nessuno nemmeno si è fatto vivo più, né WhatsApp, nulla, non, tutti morti o in vacanza. Sì, ma la gente sicuramente sta pensando a farsi le vacanze magari, o andarsi al mare, a trovare altri diversivi per potersi, per non annoiarsi, insomma, ecco. Per cui suppongo che sia così, ma quando comincia poi il tempo brutto dovrebbe sarebbe, dovrebbero rientrare, almeno credo. Anche lì a cosa, come si chiama? Gianni Lubrefetto, o come accidentato si chiama, anche lui ha fatto l'entrata del leone e l'uscita dell'usurio, perché non si è più sentito. Anche lui si vede se sta nel mare, no? Sembrava uno che avesse voglia di restare per questo, invece anche lui è sparito. Ma lo devi capire, perché d'altronde cosa entra a parlare da solo? Alla fine anche lui si è accorto che magari 7 giorni su 7 non entra nessuno, e quindi ho detto, io lascio il punto elevare tutto, perché tanto qua prende polvere, non metto tutto all'armadio e buon viaggio. Se si può svendere quella roba si svende, perché alla fine più che svendere non puoi, e se non rimane lì, mi faccio la vetrinetta, come avevo detto, quegli apparati in esposizione, accesi, capito, collegati al ventilatore, così con la scusa non si rovinano per inutilizzo. Oggi c'era anche un bel sole, mare mi pare quasi calmo, se non calmo, però io ho altro a fare, devo stendere roba, mi sono fatto la barba, i capelli, devo stendere roba lavata, devo fare varie pentole, insomma, mi dedico più alla casa oggi, da cui se ne ho voglia domani, dopodomani cercherò di andare a mare, se non ne ho voglia me ne sto a casa, al fresco soprattutto, e qua si sta bene, non c'è caldo qua, qua sta veramente, veramente bene. Beh certo, anche qui da me si sta bene, no? Non posso lamentare, ma io stamattina ad esempio mi sono passata un'oretta così, mi sono data una rinfrescata alla porta d'ingresso a casa, con un po' di impregnante, una mano ieri e una mano oggi, adesso domani gliene darò una terza mano, così sono tranquillo per altri 3-4-5 anni, perché non, che non ci devo mettere mano per beneficiare il portone d'ingresso. È venuto una bella villa, nuovo, sai che non glielo, come se l'avesse fatto oggi stesso, l'avesse installato oggi stesso, è perfetto. Vabbè, come io dico, il genere non è un'altra, lo sai, il mio lavoro, per cui, cioè era il mio lavoro, pertanto non ho problemi di manodopera, non ho problemi di chiedere a nessuno come si deve fare per fare il lavoro. E adesso invece, siccome ho notato che c'era una piccola perdita nel bidet, nel bagno, e cosa è successo? Cosa è successo? Che si è bucata la cannetta sarebbe quel tubo che si attacca allo scarico, al muro, no? E tra il bidet e il muro, dove c'è il tubo di scarico. Qui l'ho smontato e adesso in questo momento siamo senza bene, ma ce l'abbiamo nell'altro bagno che si induce eventualmente, non è un problema, perché anche qua mi posso lavare, non è trovato il bagno, che problemi ci sono, per dire, no? Perché tanto l'acqua l'ho chiusa solo nel bidì, perché l'impianto l'avevo fatto in quel modo, ogni accessorio al suo rubinetto d'arresto, per cui chiudo quelli e gli altri sono sempre funzionanti. E ti dirò che la cannetta, ho visto che è bucata, è un tubo di 20 cm di ottone, lo conoscerai, no? Questo tipo di materiale. E adesso domani lo compro e lo piazzo, però al momento ho voluto verificare per quale motivo vedevo questa goccia che scendeva dietro il bidet, ed era quello. E dopo 15-16 anni, anche per la testa che è piazzato qua, la prima volta che mi ha dato problemi, domani lo compro e lo sostituisco perché è bucato. Anche quella del lavandino, mamma mia, si rompe solo a guardarsi, lo sai. Infatti è strano che non sia stata fatta di plastica, di quel materiale bello robusto e di quelle sottili, di metallo sottile. Infatti appena darà problemi poi si cambia. Eia, mamma mia. Poi qua io stanotte ho passato la notte in bianco, no? e ho visto che era tutto aperto, finestre aperte da una parte e dall'altra, e così entra il caldo. Invece ho chiuso tutto e se non si aprivano di giorno e chiudiamo di notte è finito lo scopo. E c'era un periodo, mi ricordo, che non so per quale motivo mamma apriva di giorno, cioè entrava tutto il caldo estivo e poi di notte chiudeva tutto, quindi il caldo rimaneva anche di notte, non aveva assolutamente senso. Invece di notte apro, faccio passare l'aria e dormo a finestra aperta io anche. Bisogna sentire un po' di aria fresca dalla notte. Bene, c'è qualche anima pia all'ascolto, vediamo. Mi quello che fischia a me. Anche noi qui abbiamo le cantaniere, qui c'è la notte. Nel senso, la notte è anche di giorno. La persiana può essere anche abbassata, però siccome ci sono quelle palette che si girano, che si orientano, più luce, meno aria o più aria, e dunque ci sono le zandaniere, lasciamo quello, però ad esempio a questo là nella parte della facciata c'è il sole che batte, allora la porta conviene chiuderla, perché se no se ne entra il caldo dentro, anche perché qua ci sono i doppi venti, ho la vetrocamera qui a casa, per cui isola bene, isola, non, problemi non ce ne sono. Se invece lascio aperto tutta la mattina può viaggiare fino alle 3, diciamo, dai, verso le 3 incomincia il sole tutto in facciata, mentre invece la mattina è dall'altra parte il sole, per cui sono le altre persiane che devono essere chiuse, e queste di facciata da tutte spalancate aperte, e facciamo così, e così l'aria passa. Poi durante la notte chiaramente le finestre rimangono aperte, le persiane abbassate e con le zandariere, per cui l'aria passa, la voglia va bene così, va bene. Voglia, c'è qualcuno all'ascolto che vuole entrare? C'è quello che fischia. Avanti fischio. Tu lo senti, Marco? Quello lì è sempre quello che fischia. Ma fischia e fa pernacchia, cos'era quel suono strano? Vabbè, non vuole entrare. Se non vuole entrare, se ne può stare. Jack Pitt. Avanti fischietto. Vuoi entrare, sì o no? Non vuoi entrare? No, molti hanno il baracchino per fare gli scemi. Tutt'oggi è. Cioè non molti, ma alcuni. E vabbè, che te devo dire? Sto pensando che devo lavare piatti, pentola, mamma mia, la mia passione, per carità. Ok, vabbè. Se non lo vuoi lavare, se non hai voglia, o quindi stai lì, i piatti di plastica, tanto se sei tu e tua madre a casa, gli altri piatti li usi solo quando ci sono invitati, magari. Ma se per te e per tua madre e non vuoi lavarli, usa, prende quelli, usa e getta, non se ne parla più. Vabbè, al limite dovrai pagare, lavare le pentole, le posate, tutto lì. Come dirai, lavare le posate e lavare due piatti in più non è poi tanta la differenza, se che tanto vale potete usare piatti normali, per cui fare quello è il problema. La lavastoviglie non ce l'hai a metterle dentro? No, non ne usiamo. Che poi i miei piatti mi pare che sia un piatto e le altre sono pentole. Sì, anche noi certe volte usiamo quelli piatti usa getta, no? Per non stare a lavare, proprio perché non amo lavare le stoviglie. No, quella la usava nonno. Nonno aveva anche la lavastoviglie, però alla fine cioè, i piatti li dovevi quasi prelavare, perché se erano incrostati di roba non. Cioè, doveva essere fresco, usato fresco il piatto, poi dovevi togliere. Già hai capito, no? Non è che li potevi mettere come sugo attaccato, roba, se no era rottura, intasava anche lo scarico della lavastoviglie. Eppure i risultati non è che fossero così perfetti, preferisco lavarmeli a mano, li faccio più splendenti a mano. Beh, certo. Anche perché anche se ti lavava sul video, prima con la faccia a mano, prima gli era sempre di mia moglie, poi invece la lavava sul video. Praticamente quando sono già quasi la faccia, quasi. Si mette la lavava sul video e dagli la passata finale, tutto lì. E poi li toglie per posizionarli nel suo posto, no? Dentro la vetrina, eccetera. E vabbè, comunque. Vediamo se vuole entrare questo fischiettone. Avanti l'amico del fischio, vuole entrare? No, vuole entrare. Non ho capito se fischia perché sta fischiando o perché è Finucchio. Marco, non ho capito. Forse è Finucchio. Ma perché Finucchi fischiano? Non lo so io. Appunto, cioè, se Finucchi fischiano. Sarà così anche questo, che ne so. E poi c'è un altro che fischia forte. Deve essere con qualche fischietto, però non fischia a bocca. Fischia con, perché è un fischio talmente potente, poi ripetitivo, come pa pa pa pa pa pa pa pa, così no, continuamente uno dietro l'altro. Ehi, ho notato che anche la propagazione, sì, qualcosa c'è, ma non... La propagazione migliore c'è a primavera, inizio estate, quel periodo lì. Sì, qualcuno FM, però i segnali migliori erano in primavera, tra la primavera e l'estate, in poche parole. Non c'è il tanto, dai, tutti poi francesi, tedeschi, non... Ma la lingua è un problema, se non si sanno le lingue. Infatti i francesi li sento molto spesso, anche i tedeschi. Sì, diciamo che qualche chiacchierata già me la sono fatta con quelli della propagazione, ma l'ultima quando qualche giorno fa, uno dal Portogallo, ho fatto la chiamata, c'è qualcuno in ascolto su 10 e mi ha risposto questo dal Portogallo. Da Sassari non c'era nessuno. E questo è stato quasi 10 minuti, va, niente di più. E poi ho chiuso, no? Sì, lui comunque diciamo che capiva anche l'italiano. Lo parlava anche, però un po' maticato, però mi faceva capire. E 10 minuti li ho trascorsi con lui, per questo. E poi un altro della Croazia. Alcuni giorni fa, qualche tempo fa avevo sentito a Franco del Monte Basso, allora eravamo sulla frequenza 27-600, una cosa del genere, più o meno, in quella zona lì, di quella frequenza, 155 fino a 600, 650. Siamo stati una serata intera parlando, sempre di banda laterale, io e lui, non è entrato nessuno, sì, c'erano quelli della popolazione, ogni tanto parlavamo anche con loro, qua tranquilli, ma da tanta di nessuno. È comunque strano che con tante, vabbè, relativamente tante persone che c'erano fino a 2 mesi fa, adesso non c'è proprio nessuno, né per dire né Luca del Monte, né, non ti so fare un paragone, nessuno proprio, né in PMR né sul 23. E vabbè, non c'è volontà, non c'è né più volontà. D'altronde anche tu potresti dire, io ci sono da 50 anni in frequenza, se non di più, dice, adesso ce ne ho un po' le scatole piene, potresti dire, no? Esattamente, da febbraio 1972, praticamente sono passati 47 anni e mezzo, sono passati, siamo vicino alle rotte d'oro. Vabbè, comunque, io sono sempre in attesa che mi chiamino, mi dovrebbero chiamare per quei controlli, per quel famoso discorso che ti avevo detto tempo fa. Ho già fatto gli analisi, eccetera, e mi dovrebbero chiamare entro questo mese, mi avevano detto, adesso vediamo, se mi chiamano domani o domani, non lo so. Mi ricoverano per 4-5 giorni per farmi il controllo e poi dopo insieme mi andare a casa. Vediamo un po' cosa mi dicono. Ehi, aspetta che forse c'è qualcuno che vuole entrare avanti. Non mi è sembrato sentire un beep colt sotto. Io devo fare, dopo un anno dall'operazione, la risonanza magnetica di controllo. Meno male che non sono claustrofobico, perché mamma mia, ti immobilizzano la testa con una specie di supporto, di gabbietta, no? Perché non ti devi muovere, no? E vabbè. Una ordinaria amministrazione è diventata ormai anche quella. Non so, purtroppo sono controlli che devi fare e bisogna farli. Grazie, io sono impaziente, sono stato un po' scocciato perché ancora non mi hanno chiamato, avete considerato che mi avevano chiamato per fare i prelievi e gli analisi, l'ho fatto il giorno 25 del mese scorso, sono passati già 23 giorni, 23, 22, 23 giorni e ancora non mi hanno chiamato per poter fare, analizzare eccetera eccetera, capito? Poi adesso poi è agosto, tutto chiuso, tutti in ferie, anche i medici, se ne parlerà a settembre. Va bene. Volevo andare quasi da Ossano, poi ho detto no, mi dedico alla casa, metto un po' a posto, se no qua. Tanto mamma un po' con le gambe così non è che può fare più di tanto. Bene. Degli altri non sai nulla, no? Non avevo più, il doppio room non l'avevo più sentito, non sapevo se stava meglio con la gamba, non ho più sentito. Poi WhatsApp l'ho tolto perché da quando ho fatto l'aggiornamento a Android 9, questo WhatsApp ogni tanto mi si chiudeva senza motivo. Era instabile, qualche magagna da quando aggiorni il sistema operativo, a certe volte c'è qualcosa che va aggiustato, diciamo, oppure devono fare una versione più aggiornata del programma, dai. E quindi ho tolto di mettere anche quello, già c'è il telefono se proprio non ci tiene, oppure i messaggini, gli sms, come era una volta. Certo, quello già è vero, sì. Io con l'applicazione CBTOC non l'accendo quasi mai, raramente, l'ho acceso saranno 10 giorni fa, ho sentito un certo Diego, anzi a dire la verità ieri lo ascolto, lui ha visto che ero presente, lo ascolto e mi ha chiamato, ho cambiato 10 minuti di chiacchiere con lui, un tipo di da bresciano, quella zona lì, più o meno uno della mia età, grosso modo. Dunque, mi ha raccontato qualche sogliera, eccetera, eccetera, e poi abbiamo chiuso. Allora, non mi appassiona più di tanto. Android, sì, no, io ce l'ho sempre, io ce l'ho sul tablet, l'avevo installato, quel sistema lì, con l'applicazione. Il telefonino l'avevo tolto, non lo voglio. Il telefonino mi manca troppo batteria, mentre invece sul tablet, il tablet è grande, allo stesso tempo la batteria dura almeno 3-4 volte la batteria dello smartphone, per cui va bene così. Vado alla metà l'accendo. Quando l'accendo più che altro perché voglio vedere se c'è qualcuno a sale, tipo Pomponio ad esempio, che lui è abituato a stare lì insieme a Giuseppe Leoncino, ma non ho più sentito nemmeno loro, non ci sono più, erano sempre sul canale 14 e non ci sono più, sul canale 1 c'era Antonio Bombo, c'era, non si sente più nemmeno lui, per cui io Allora, se rinuncio non accendo quasi mai, difficilmente accendo. Preferisco il computer, preferisco la televisione, preferisco fare quattro passi, anziché stare lì attaccato a questa gigio, eccetera, eccetera. Poi parliamo di PMR, boh, è che ci parla più, non ci sto più parlando, anche perché tanto parlano solo quelli della Croce, poi tra l'altro escono tutti quanti col Gobbino, escono e dunque qua non arrivano, qualcuno arriva, qualcuno no, per cui è inutile poter parlarci anche lì, non me ne frega niente, anche perché tanto dico sempre le stesse notate, già lo sappiamo cosa dicono lì. Ma non solamente il PMR, ma anche nel canale 23 fa calendario, i discorsi del capo, vabbè, insomma, ognuno dice quello che crede, chi se ne frega. Buon divertimento a loro, se credono di divertirsi così. Sì, vabbè, d'altronde anch'io, già dico di fesserie, certe volte. Quando non hai un argomento, si comincia a sventiare così, dai. Sì, allora, Civitalk, io ho tolto WhatsApp, ho tolto. Poi se ci sarà una versione più stabile, va bene, ancora. Civitalk non l'accendo nemmeno più, anche perché a me i canali nazionali, no? Non ho interesse a entrare in quel canale, a parte che non riesci mai a prendere la parola, comunque non mi piacciono, sono bisticci spesso e volentieri. Poi entrano i soliti napoletani, caso strano, a parlare male, a parolacce, a insultare tutti, che non mi piacciono. I canali invece locali non c'è più nessuno, nemmeno Pomponio, nemmeno Leoncino, nulla. Non ha senso, infatti disinstallerò anche quella, anche perché si mangia la batteria, perché si è notato Civitalk, quando la TV vuole che ci sia il GPS attivo, o comunque un altro sistema di localizzazione analogo, dipende come è impostato il telefono, vuole o il GPS, aspetta, che sistemi usa? Usa per il riconoscimento locale, vuole il GPS o il Wi-Fi, oppure tramite rete mobili vuole l'identificazione della zona, ecco. E certe volte, a seconda di come è impostato il telefono, li usa tutti e tre. Potrebbe usare GPS, Wi-Fi, vicini, oppure anche le reti mobili, e quindi consuma ancora di più, capito? E ho notato la batteria scende in fretta quando c'è quell'applicazione, sì, ma allora mi scoccio e... No, ma non ne sto più usando nemmeno io, fine. Al diavolo tutto. Sì, no, secondo me non ha avuto nessun successo qua, proprio, snobbato da tutti, fanno bene qui in Sardegna, perché non... qualcuno si ogni tanto si sente. Mentre invece all'estero ho visto che tanta gente lo utilizza, quando vedo i puntini grigi, però sono quelli che parlano a lunga distanza, quelli che hanno il microfono praticamente, che hanno comprato il microfono. Allora sì, perché ho notato anche prima, nel primo periodo, sentivamo anche gli spagnoli, i francesi, i tedeschi, adesso invece no, adesso su quei canali e basta, finisce lì, è tutta roba italiana e basta. Se vuoi parlare con loro devi recuperare il microfono. Per cui ho visto che non. Però prima una scappatina con la Spagna, addirittura avevo parlato anche con i brasiliani, che avevo incontrato delle persone abbastanza socievoli, per cui mi piaceva, insomma, con l'Argentina anche, e ci ho parlato un po' di volte, invece adesso quello l'hanno tolto, non c'è più, non si può più andare a parlare con gli stranieri, devi parlare solo con gli italiani, a meno che non ti copri il microfono. Ah sì, io ricordavo fino a mesi fa tu potevi aggiungere, mi pare, tre paesi esteri a tua scelta, oltre a quelli italiani. o 3 o 5, adesso non mi ricordo, se avevi un limite, no? Potevi anche cambiarli, un giorno potevi inserire, che ne so, Portogallo, la Francia, l'Inghilterra. Allora hanno cambiato le cose e l'hanno fatto per vendere quel cavolo di microfonaccio dual mic, capito? Ma che poi diciamo il concetto è buono, tu lo puoi usare per esempio suonare un 48 oppure con un selettore, con un tastino passare all'applicazione con lo stesso microfono, se vogliamo per esempio per gli autotrasportatori, no? Per i camionisti è comodo perché loro possono parlare al baracchino, poi quando perdono il segnale al baracchino passano automaticamente, cioè prendono un tastino, passano all'applicazione, per loro è un bijou, è un bijou. Vabbè che ormai usano direttamente l'applicazione, baracchino, ma non credo che ne usino più, non ha più senso, ma vabbè. Adesso controllo, aspetta che prendo il telefono e vedo se si possono aggiungere paesi o se l'hanno eliminati del tutto, dai. Ok, sì. Io se li ho già sintonizzati, se per quello. Però addirittura non scorre più addirittura. Prima scorreva, dal gruppo italiano si passava al gruppo straniero e non c'era problema, parlava con chiunque. Ma c'era vero, potevi inserire 3-4 paesi stranieri, ma adesso mi sa che non è possibile, a meno che non hanno cambiato qualche manovra da fare, non lo so, ma non credo però. Ma lo scopo era quello, di me non toccavo il microfono, cosa che io suppongo che non comprerò mai, tanto a me cosa me ne faccio di questo microfono. Se ci fosse stato magari attività in Sardegna, può darsi anche che l'avrei comprato per poter parlare con la Sardegna, ma parlare con il continente, ma cosa me ne fotte con questa gente intanto bacare d'aria, ci sono certe donnine, non dico donnacce, donnine, per quanto mio sono donnine trasformate in donnacce, dalla Sicilia, dal Lazio, dal Napoletano, bacare d'aria, vengono qua l'equipo, queste cagne e calori sono quelle. Si vede che sono ammantati, si danno l'appuntamento con questi camionisti che transitano nei loro paraggi e evidentemente si incontrano anche, è uno schifo insomma, ecco, baratine, tutta un'altra musica. Dai, non essere così. Beh, tanto pensa che al baracchino, quando entrava una nuova, di quelle ragazze giovani, lo stesso, ci si dava un appuntamento, ci si incontrava, poi se la persona piaceva magari ci scappava qualcosa, no? Giustamente. Allora, Giulio, ho il programma aperto, no? Sono su un canale nazionale vuoto, no? Vado in alto a sinistra, dove ci sono le impostazioni, no? Le tre lineette orizzontali, no? Premo e vedo rubrica utenti di gruppo, blacklist, dual watch, aggiungi in azione. Io tocco aggiungi in azione e mi si apre tutta la lista delle nazioni. Emirati Arabi, al Maghreb, come si chiama? Algeria, Andorra, Argentina. Credo che si possano selezionare, qua vedo che le caselle sono selezionabili. E l'importante è poi che me la posso togliere. Allora, dice, seleziona la nazione che vuoi aggiungere nella lista dei gruppi. Puoi scegliere fino a 4 nazioni, eccolo qua. Fino a 4 nazioni, ci sono tutti i paesi del mondo, riesci a vedere fin dove arriva, vabbè tutti comunque, Israele, Vietnam, Uzbekistan, tutti ci sono, dai. Comunque vedo che è attiva, io probabilmente se lo inserisco funzionerà, però non voglio inserirli, che poi rischio di non poterli togliere. Non credo sia così, potrei provare, che ne so, voi che provi? A provare si può provare, il problema non ce ne sono, poi gli assistono al limite. Ah, ma so che e puoi ascoltare e magari però non puoi trasmettere se non hai il microfono. Io mi ricordo che se funzionava così. Sì, puoi suonarti, d'accordo, e magari ascolti anche, almeno nel primo periodo era così. Però non puoi parlarci perché non hai quell'accidente del microfono, per cui adesso non lo so se hanno cambiato ancora, perché ogni tanto fanno una piccola rivoluzione del sistema, capito? E dunque, uno se non è aggiornato, una persona come me che accende una volta ogni moto di pappa, e dunque non sono aggiornato al 100% all'ultima rivoluzione che hanno fatto, per cui non so, può darsi anche che mi stia sbagliando, ma io mi ricordo che era così. Potevi ascoltare ma non potevi trasmettere perché non arrivavi, perché ci vuole sempre la distanza, cioè la distanza te la dà il microfono in pratica, tutto lì ai 100 km, capito? E invece noi rimaniamo bloccati ai 30 km non avendo il microfono. Allora, sono entrato in un canale spagnolo, numero 10, ho fatto hola e mi ha risposto uno spagnolo, e ho capito solo adelante, solo quello ho capito, quindi funziona il sistema, probabilmente non ha trovato l'impostazione Giulio, aspetta che esco da qua. Igualmente, andamos aquí liados cambiando los textos, que me manda mi madre, aquí para allá, haciendo unas chapucillas en el coche, pues bueno, aprovechamos. No capisco una parola, no capisco nulla. Lo spagnolo, secondo quale spagnolo è, perché c'è differenza, è come la Sardegna, no? Magari qui c'è il logodurese, c'è il campidanese, c'è il barbaricino, e così via, quelli sono loro. Se parlo ad esempio, che sono io da Madrid, tanto per fare un esempio, no? In questi posti così, guardi le linee, eccetera, e si può anche capire, ma se parlano magari da qualche altra parte è diverso, è più stretto, e non capisco l'accidente in quello che dico. Da creare casino tanto per cambiare si stanno afferrando sul canale Italia, aspetta, Italia 08, ci sono 46 persone tutti lì ad ascoltare il bisticcio. Sto parlando con un ragazzino che oltretutto è educato al massimo, perciò non lo vedo cosa continui, a cosa servono i tuoi continui interventi, a cosa servono. È come il baracchino tanti anni fa, è una cionfra. Sì, lo so, adesso l'ho acceso in questo momento, l'ho acceso. Su quale canale sei tu? Su quale canale sei? Io sono sul canale Italia 14 e ci sono 4 persone. Allora, Italia 08, 48 persone. 48 persone. 49 persone adesso, dai. Sta volendo in questo momento, c'è qualcuno chiedo, c'è. Ho capito, sì, lo sto ascoltando. Ah, Tamburello era quello omosexo. Eia. Vediamo i nominativi. Oh, però adesso per dire Giulia, adesso silenzio qua perché non li voglio sentire. Ho inserito la Spagna, però adesso non me la fa togliere da quella lista, allora aggiungi nazione, no? C'è Italia predefinito e poi la Spagna, sto cercando di deselezionare e non mi deseleziona nulla, mannaggia, lo sapevo. Sì. Allora mi hai detto che bisogna premere le tre vignette che ci sono su in alto, ecco qua, le ho premute e adesso devo fare impostazioni, così. Aspetta, allora l'ho tolta, allora ti appare il menu, no? Rubrica utente del gruppo, blacklist, c'è aggiungi nazione. Sì, aggiungi nazione, tu sei andato in Italia, hai detto? Sì, ho selezionato la casella a destra, tutto a destra della Spagna, e me l'ha inserita in alto sotto Italia predefinito, me l'ha giù. Ah, l'ho tolta la Spagna, Siccome per toglierla, no, in alto alla lista c'è una piccola X che non riesce a cliccare quasi, l'ho cliccata, me l'ha tolta. Ok. Ok, no, sto guardando relazioni. Sto guardando relazioni. Vediamo un po'. Belle quelle nazioni, al Maghreb, al-Arab, Arabia Saudita sarebbe, mamma mia, ma sono impronunciabili anche. Sì, di quello sì, oh, sono uscito adesso, adesso si è bloccato, adesso sono arrivato su Italia 8, 49 un tempo ci sono in questo momento, ma non ho... Comunque è bello perché sono un parente dall'altra parte del mondo, puoi usare questo sistema anche. Mio cugino per esempio sta lavorando in, non in Inghilterra, quella a fianco. Mannaggia me. Irlanda, Irlanda. Stavo riattivato. Ascolta, proviamo sul, sul canale 1 nostro, quello di OCH. Va bene? Canale 1? Ma noi perché usavamo l'1? Oppure mettiamo un altro canale? Sì, è uguale. Un po' di abbastanza truffatori, ti già lo sa. CH però, gruppo CH. Per quello canalizzato, canale 1 facciamo, dai, prendiamo un po'. Sì, sì, sì. Aspetta, mannaggia, mi si è chiusa mappa. Allora, credo di vederti, sì. Credo che sia tu quello, aspetta, controllo. Sì, Giulio Dollaro, Giulio Dollaro. Io ho un altro nome qua, aspetta che parlo. Eia, pensa che io ho un ripetitore, ce l'ho a 30 metri, il ripetitore Vodafone, ce l'ho proprio a un tiro di sputo, lo vedo dalla finestra, 30 metri massimo, per cui io ho il segnale del ponte a manettissima, di più non può essere. Ogni tanto nell'audio tu hai un mancamento, forse non. Quante tacche hai del cellulare o dello tablet? Il tablet, arriva fino a 30, a 30 chilometri, arriva, praticamente arriva a fondo, arriva. Quando tu moduli arriva a fondo, arriva. Aspetta che li provo. Sì, no, non dicevo lo smitter dell'applicazione, il segnale cellulare, quanto ce l'hai? Buono, 3 tacche, 4. Ah, qui, aspetta che guardo, perché io sono qui in una nuova scheda, l'avevo messa e ho messa, secondo questo tablet, è grande 25 centimetri e per 15, una cosa del genere, no? E dunque... L'avevo installata anche qua, l'avevo installata. La... Che... è uguale a Palatino, quella voce è uguale. Sentiti Giulio. Parla. Sì, è uguale, però fammi sentire. Ho capito. Sì, sì, sì, sì, chiaro arrivi. Arrivi chiaro. Luigi, Luigi Vulcano. Entra, sei sul canale 2, fatti sentire sull'uno, dai. Ti vedo nella mappa. Non so se tu sia anche qui però, Luigi. Ascolta, Marco, fammi sentire un baracchino. Fammi sentire un baracchino. Avanti, Sicchio. Ciao Luigi. Ascolta. Marco, fammi sentire, sì, un attimo, fammi sentire il baracchino, fammi sentire il baracchino nell'applicazione, Marco. Sì o no? Sì, sì, aspetta, lui, ci stiamo barcamenando tra... Ok, dai, prova, fammi sentire, vedete. Dai. Siamo in mezzo perché siamo vicino al microfono, ma aspetta, era lontano, così, prova Marco. Prova Marco. Sì, è in mezzo perché hai il microfono, il telefono vicino a te. Io ce l'ho sempre acceso qua. Scappa. Il GPS, sì, vabbè, ce l'avevo tutto carico, però già la butta giù la batteria, mannaggia. Se ci stai tutta la sera te la succhia la batteria. Allora dai, ci sono, qua. Ok, avanti lui, sta facendo bene comunque, dai lui. Allora Giulio, qua ho fatto ho giocato sopra, dai, facendo esperimenti, tanto è una cosa vecchia e ci ho voluto giocare, ho fatto sotto una cosa, un integrato, gli ho fatto fare dai 4 watt, l'ho fatto salire a picchi di 18, però ho voluto cambiare anche un po', non lo so se funziona, lo sto provando con te, l'ho appena chiuso, appena fatto, lo sto provando con voi adesso, la prima cosa che... Comunque del radio è buono. Il radio è buonissimo, va benissimo così. La radio è molto corposa, va bene, va bene. Poi ho aggiunto per i condensatori, sono dentro all'interno. E ti volevo far sentire se cambia qualcosa. Io parlo un microfono sempre normale, palmare normale. Adesso faccio sentire se cambia qualcosa. Da così cambia qualcosa nella modulazione sulla voce, cambia qualcosa così? Sì, sì, cambia, diventa più bella e sembra anche un po' più forte. Va bene, adesso provo ancora un altro scatto, perché ne ho aggiunto due questi condensatori e li ho messo dove, poche parole, dove si registra la lembetta a tre scatti, dove si controlla le stazionarie, ho eliminato quelle e ho messo questo. Vediamo un po', adesso vado ancora oltre. Oh Giulio, questo ho aumentato ancora con un altro condensatore ancora all'interno, ho fatto l'altro scatto, il terzo scatto, ancora più forte o è più brutta? No, come radio è rimasta bella lo stesso, però la seconda mi sembrava più chiara, cioè questa è più corposa, però vedete invece più forte mi sembra questa, così ho orecchio perlomeno. Vediamo un po' cosa ha ascoltato, o come ha ascoltato Marco, vediamo un po', Marco, cosa dici tu? Allora io le differenze non le sento tanto perché non ho l'orecchio allenato un po'. Comunque ottima sia la seconda che la terza, ma anche la prima. Dunque la terza è buona, è forte, è corposa, cioè non credo che possa andare meglio di così anche lui. Sì, è un esperimento, comunque questa è la terza, adesso la chiudo completamente normale. Allora così è normale, messa proprio normale. A zero. Sì. È un po' più pacata come modulazione. Sì, come una normale. Comunque posizione 3 va bene, 2 anche, ma anche 1 andava bene. È positivo, la così è normale, però ho aperto di radio, di come si chiama, dai, sono integrato R32. Tolto quello che fa anche a 18 watt, aumenta e gli dà più radio e più cosa, però poi ho fatto questo esperimento, tanto pensavo di bruciarla che buttavo via tutto, però ci ho giocato un po', sto facendo degli esperimenti, capito? E poi ho provato con questi condensatori all'interno, prima ne ho messo uno, poi ne ho messo, ho provato con due, però volevo fare tre scatti, farlo normale così e poi questo è il secondo scatto che col primo condensatore, che è un condensatore da 68, e questo è da 68 e poi ne ho aggiunto altre 68, ecco qua, così è il terzo, così siamo col terzo scatto, un altro condensatore da 68, 63 stavo confondendo io, da 63. Caspita, hai anche degli ottimi picchi di modulazione, passi da 8,5 a 9 più 5 abbondante, quasi 9 più 10, se mi facessi un bello ola lungo, ti dico quanto arrivi. Positivo, ola. Diciamo che tra 9,5 e 9,10 modulato, non modulato è 8,5. Va bene, da questo è il microfono normale palmare, è uscito anche bene questo paratino. Niente, No, ho tolto l'integrato, dico la verità, ho tolto l'integrato per quei picchi che tu vedi, ho tolto il CR32, che ha tre piedini, poi gli ho fatto il ponticello, togliendo quello, invece arrivava sui 6-7 watt, non di più, ma togliendo quello arriva anche a 18, cioè questi picchi più, si dà più radio, dai, più, non è più normale, però fa un po' di più, dai. Sì, la radio è più forte, e anche di segnale aumenta leggermente, certo, già si vede che c'è un po' più di segnale. No, io la verità va benissimo, sia al secondo stato che al terzo, ma anche il primo è buonissimo, non è che non sia buono. Però forse fammi sentire prima uno e poi l'altro, mi fai sentire il secondo stato e il terzo, per vedere se c'è una leggera differenza. Cioè, ci dovrebbe essere una leggera differenza tra quei due, il secondo e il terzo stato, o lui, perché mi sembra che il secondo sia leggermente più chiara, leggermente, mentre invece il terzo stato mi sembra leggermente più confusa, però più forte, mi sembra, e adesso vorrei verificare di nuovo, mi parlo Luigi, secondo e terzo poi. Va bene Giulio, allora in poche parole questi condensatori dovrebbero fare più corposa la radio e dare un po' più corposa, dovrebbe farla leggermente, dovrebbe dare appena appena di radio in più, però molto più corposa. Iniziando che sto partendo con portante bianca, sono 2 watt e mezzo, Giulio, 2 watt e mezzo di portante bianca, eh. Adesso faccio il primo scatto. Ora ho fatto il primo scatto, Giulio, il primo, poi parlando stesso ti faccio il terzo, mi aspetta. Ora è il terzo, Giulio, questo è il terzo scatto, l'ultimo in su. No, non c'è granché di differenza nella radio, vanno bene tutti e due, entrambe vanno benissimo, va bene sia il secondo che il terzo, non problemi, non ce n'è. Va benissimo, può tenerlo benissimo al secondo o indipendentemente al terzo, secondo me. No, Giulio, la fa più corposa, questo sistema non è che fa più watt, la fa più, dovrebbe cambiare la tonalità della voce, te la fa più corposa, capito? Questo è il terzo scatto, eh? Adesso te l'ho messa al primo. Questa è più chiara, questa c'è una piccolissima differenza, al terzo scatto rimane più corposa, ma non è una grande differenza però, eh? È quasi uguale, per cui non, io preferisco il secondo, la verità, perché ha una radio più chiara, meno corposa, insomma, però ripeto, anche il terzo scatto va benissimo ugualmente, a chi piace quel genere di radio è ultimo ugualmente, tutti e due ultime sono. Sì, allora me. Così è il secondo, di solito io ho visto quando questo un po' l'ho copiato da quelli che fanno lavori e cose, ne mettono uno da 50 o da 63, lo mettono questo condensatore da 10 volt, capito? Sì, ho capito. E l'hai dovuto applicare, ma hai detto nell'integrato, quale integrato sarebbe? Allora, l'integrato è vicino dove entra lo spinotto del barattino, è il TR32, quello tu lo dovresti, ma non sono tutti gli apparati, dipende dall'apparato, quelli vecchia data ce l'hanno. Sono quelli a tre piedini piccolini, c'è cioè il TR32, eliminando quel TR32 gli fai un ponticello, allora parti esattamente tu arrivi per esempio 5-6 watt aprendo tutta la radio, no? I picchi, invece togliendo quell'integrato gli fai il ponticello, vedi che fai i picchi quasi di 20, arrivi 18, proprio vedi che il lago va e salgono i picchi ed aumenta molto di radio, capito? Capito? Poi vuoi cambiare la tonalità, devi aggiungere questi condensatori, o se no puoi fare anche un'altra cosa, puoi con le resistenze da 1800 nel microfono, ma è tutta una cosa complicata, questo con le condensatori vanno meglio, però devi metterlo uno dove entra proprio la corrente, il piedino al più e l'altro a massa. Certo, se che il condensatore deve mettere sempre il più al più, il più alla fase, e la massa che si ammassa, è ovvio, però il condensatore si brucierebbe, solo così funziona il condensatore. Sì, ma il TR è questo transistor che stai dicendo tu, questo integrato, così, a tre piedine hai detto, così, e dunque il condensatore a due, tu mi hai detto che fai il punticello su quale? Sì, su dove togli tu il coso, il TR32, di cui ci sono i buchetti, lo devi fare il ponticello, hai capito? Devi fare il ponticellato, va quello lì, capito? Sì, sono tre fori, sono tre contatti, no? Perché se ha tre contatti, l'integrato ha tre tutti e tre li devi fare il ponticello tutti e tre insieme. E devi collegare tutte e tre insieme, sì, tutte e tre insieme devi collegare i piedi. Mentre invece il condensatore attacchi lì, la parte positiva del condensatore e l'altro lo mandi a massa, così hai detto. Positivo, positivo. Allora molti ho notato che mettono una resistenza, tolgono l'integrato e mettono una resistenza, che poi questa resistenza loro tutta la coprono per non fare, hai capito, le fanno, si mettono una specie di cosa per non leggere la tu, capito, però già arriverò stesso. Ho capito. Sono modifiche che uno se li conosce già si possono fare, certo. Io so quello del microfono, dell'NB più 4, ad esempio, si fa un po' un ponticello eliminando, anche lasciando le due resistenze che ci sono all'interno dell'NB più 4, però, non il microfono normale, ma il microfono precedente. E ti aumenta la modulazione abbastanza, diciamo. Ecco. Ci sono due resistenze, quelle vanno anche lasciate attaccate, però gli fai il ponte, gli fai nei due contatti dove ci sono le resistenze e dunque aumenta anche il microfono. Sì, mi ricordo che avevo fatto quello mio, ti ricordi come usciva quelle NB4, avevo fatto i ponticelli, le cose, ti ricordi quando usciva bene, quando lo provavo anni fa con quegli altri apparati, sembrava una radio professionale. Sì, beh certo, sì, evidentemente perché gli dà più corrente alla radio e magari qualche microvolt in più ne dà e allora si cambia completamente la modulazione. E vabbè, sono inserimenti bene da fare, però ormai lui, sono tutti falliti dalla frequenza, adesso è un sacco di tempo che non sentivo più nessuno, io sono almeno, senza esagerare, più di 15 giorni che non avevo sentito un'anima, nemmeno una parola da Sassari, mentre invece dalla corporazione sì, qualche collegamento già l'ho fatto, eccetera. E non è più voglia la gente, lo stesso cambio, ad esempio ha detto che dice c'è troppo caldo e lui non vuole modulare, perché c'è troppo caldo, sta facendo le vacanze lì in campagna, ogni tanto si fa un tuffo nella piscina, deve essere, e allora si rinuncia al baracchino perché c'è troppo caldo. È positivo, no, ma se io non è che riesce a averlo, così vado meglio, adesso l'ho fatto perché sentivo un piccolo, è un sperimento che sto facendo, sembra di sentire delle scarichette, adesso non è che se si rompa qualcosa, già una pista l'avevo bruciata facendo questo qua, poi mi stava arrendendo, poi ci ho riprovato ieri e oggi l'ho finito, dai, no, non è che una pista l'ho bruciata, a dire la verità, Giulio, qualcosa mi è andata storta, a dire la verità, che ho sbagliato qualche cosa, ho fatto qualche, che mi è sfuggito, però l'ho riparato, dai. No, a volte sto lì lavorandoci sopra questi paratini fichi che ciò e cosa, però senza neanche entrare in radio, senza neanche ascoltare a volte, capito? Quindi questi giorni sono dedicato, ne ho fatto di questi ragazzi che lavorano sodope, sono di Ottana, me ne ha portato due che avevano in camion, erano rotti, non funzionavano e mi sono messo, dai, me l'ho messo a posto, infatti io gliel'ho consegnato a cosa che non c'è, questi amici suoi, e gliel'ho sistemati, erano un po' bruciati, qualcosa non funzionava, e sono riuscito a mettere questi che avevo io qua, gliel'ho sistemati, ieri ce l'ho portati via. E così adesso stavo provando con questo vecchio a vedere cosa, se non lo brucio, però non lo so se può andare bene questo lavoro che ho fatto, capito, giù. Adesso un po' sta resistendo, non so, dai, può darsi che vada bene, può darsi che vada male, tanto è un apparato vecchio che l'ho fatto diventare nuovo, a dire la verità, l'ho fatto diventare nuovo e non lo so, speriamo che vada, dai, se non va pazienza, lo buttiamo via, tanto ci ho giocato un po', ho fatto delle prove, delle così, diciamo così è normale, la tonalità sua normale senza fare niente, capito Giulio? Ho passato tutto alle beta in più e va bene lo stesso. Sì, no, già va bene, sì, già va bene, a voglia. Sì, sì, e vabbè, è meglio passare il tempo così, tanto cosa fai, uno quando è a casa, almeno in qualche maniera il tempo lo deve passare. E così è lui. E beh, Marco, io lo fate. Sì, io sono qua Giulio, mi sto preparando psicologicamente a lavare in cucina, a lavare pentole. Attualmente Giulio ti volevo avvisare, io là ho chiuso il programma, no? E tu avrei chiuso il programma, penso. Ricordati però che il GPS rimane attivo, almeno nel mio telefono è così. Rimane comunque attivo anche se chiudi il programma, quindi devi andare sulle impostazioni e disattivare il GPS, perché sennò piano piano la batteria te la consuma. Anche Luigi, non so se avete controllato di disattivare il GPS, perché mi ha fregato varie volte. Capito, il programma ti chiede di attivarlo, però poi come chiudi il programma non te lo richiude automaticamente, bisogna chiuderlo a mano. Sì, no, ma quello è vero, Marco. Sì, infatti io ce l'ho ancora inserito, sono sempre sintonizzato su quel canale, canale 1. Adesso voglio vedere se c'è qualcuno sugli altri canali, su 14 ad esempio. No, non c'è, Antonello non c'è. Stavo guardando se c'è Antonello, ma non c'è nessuno. Pazienza. No, ma io già lo chiudo ogni tanto. Ogni tanto, sempre lo chiudo. Adesso sono passato sul canale dato nazionale. Adesso lo spento, Bruce. Adesso è tutto spento. Per cui non c'è più niente. Sì, no, non mi interessa, intanto io lo ricarico, poi ho ancora il tablet che ha l'85% di batteria, per cui questo poi lo rimetto a caricare e il tablet intanto poi rimane giorni e giorni se sto utilizzando. E così, sì lo so, ma no, il telefonino ripeto, l'applicazione l'ho disinstallata perché non mi interessava nel telefonino, la verità, perché non voglio che mi dove, anche perché è nuovo questo telefonino, non lo voglio più riempire di pasticci, dai, avevo tante cose, avevo più interessi, avevo tante cose, e ho tolto tutto indistintamente, solo WhatsApp, ho tenuto messaggi e telefonate, basta, no, niente di più. Sì, vabbè, le notizie le ricevo, le notizie dello sport, quelle già le ricevo sempre, quello sì. Però per tutto il resto mi ho tolto tutto, perché lo voglio tenere pulito. Questo è un telefono nuovo, perché l'altro ce l'ho sempre, l'altro smartphone, adesso ne ho due, però uno l'ho messo da parte e l'ho messo, anzi per la verità l'ho data mia moglie e lo utilizza lì, anche se il telefono ce l'aveva già lì, no? E dunque questo non lo voglio riempire, anche perché questo qui ha 32 giga di memoria e non me la voglio consumare così, Marco. Oh, a voglia, prima di riempire 32 giga, ui! Io qua avevo preso quello 4 di RAM, 64 di memoria, ho detto chissà si riempirà in fretta, invece non, oh, prima di riempirlo ne devi scaricare i programmi, centinaia e centinaia forse ne devi scaricare, e in più avevo messo anche la micro SD da 32 per espandere pure, invece era superflua la micro SD, a saperlo non l'avrei nemmeno messa. Vabbè, comunque, sulla micro SD poi salvo esclusivamente le foto e i video fatti con la fotocamera, invece i programmi stanno sulla memoria principale, anche perché ho notato che non me li fa mettere sulla SD, proprio per come è il sistema operativo. Vai Luigi, dai. Sì, no, io stavo guardando a te, però, come si dice, però a me spegne, il GPS si spegne quando, ma dipende come lo spegni, tu come lo chiudi tu quel programma lì, schiacci quel pulsante dove c'è off, il pulsante lo schiacci lì. Allora io metto off, poi vado, chiudo proprio il programma dalla... in basso ci sono quei pulsanti, no? Premo il pulsante quadrato, vedo i programmi in esecuzione e chiudo portandolo su, strisciandolo, portandolo su, cioè lo chiudo del tutto, perché se no rimane in background il programma. Però nonostante tutto il GPS va disattivato a mano nel mio telefono e invece magari nel tuo diverso. No, ho controllato, ho detto, ho controllato anche altre volte e si spegne, ed è spento, è disattivato. In automatico, io non accendo il GPS, quando accendo quel programma va in automatico, hai capito? Ah, no, qua praticamente me lo chiede ogni volta. Me lo chiede ogni volta di attivarlo, forse perché nelle impostazioni ho... devo guardare, la verità, io non lo uso mai lui, non lo uso più, infatti disinstallerò anche quello, perché alla fine no, non mi serve a niente. Sì, una volta eravamo entrati, mi pare, in 10, in 15, quant'era? Ti ricordi Giulio, una volta eravamo in 2, 3 e sono entrati tutti quelli che potevano entrare sono entrati sul canale. Con l'applicazione, poi però non usa nessuno, eppure è comodo me, perché io dovunque fossi, a letto, in campagna, anche pensa dal gabinetto, io stavo parlando con l'applicazione seduto sul gabinetto, non so se mi spiego. Sì, ma è così, io Marco, in effetti è così. Questo è utile perché puoi parlare da qualsiasi posto, ma poi la comodità che non ci vuole un'antenna, non ci vuole niente. Solo che hai diciamo, il problema che qui a Sassari, o perlomeno in zona, in Sardegna, eccetera, c'è gente che non lo usa questa applicazione, se no avremmo potuto parlare anche lì, avremmo potuto parlare. Adesso che il baracchino è tutto un altro discorso, però, visto considerato che questa applicazione l'hanno inventata, l'avremmo anche potuto utilizzare, ma diciamo che non ha avuto molto successo qui in Sardegna, perlomeno, perché io controllo di tanto in tanto, ogni pochi giorni accendo, controllo, non c'è mai nessuno. Da fuori sì, ci sono sempre i camperisti, ci sono gli autisti, dei camion, eccetera, eccetera. E poi ci sono anche i privati e già lo utilizzano. Però lo utilizzano in una maniera alle volte molto scorretta. Infatti dove ci sono troppe persone, io quando accendo, che vedo che ci sono tante persone, quando ci sono più di 5, 6, 7 persone, boh, cambio canale, perché intanto è inutile stare ad ascoltare lì, perché vado sempre dove ci sono poche persone, di solito quando massimo 7 persone allora posso ascoltare lì, ma se ci sono 50 persone come in questo momento sul canale dove eravamo poco fa, oh, ma cosa ci sono a fare? Nulla, non ci sono a fare proprio niente. È positivo, poi ci sono uomini che cercano uomini che fanno notato, ce ne sono parecchi, dai, abbiamo visto che ce ne sono in quei programmi lì, è una cosa, no, non lo so, a me non lo da tanto, però non ci vado quasi mai, dico la verità, non mi aspira più di tanto, no? Visto che era facciamo certi discorsi, certe cose, qualcuno che è molto maleducato, ma andiamo a perdere niente. Comunque dai, ma questo baracchino lo posso anche adoperare perché funziona bene. Dai, mi approfitto a salutarvi, dai, che vedo un po' di controllare se uno dei miei figli che sta facendo un lavoretto giù di placcaggio e voglio vedere cosa ha combinato, dai, se ci serve qualche mano o qualcosa. Va bene, dai, mi ha fatto piacere. Ah, Giulio, ti mi sono dimenticato, ti avevo mandato una foto su WhatsApp, non so se l'hai visto, di un microfono, se non ha fatto ieri. una retta, un flash, ma cosa sai che c'è il baracchino? Giulio, non c'ha il microfono, non so se te l'hai visto, l'ho mandato su WhatsApp. Ma quando l'hai mandata? Perché? Ma adesso l'hai mandata? No, 3-4 mesi fa te l'ho mandata, non so se ce l'hai sempre attivo. No, non ce l'ho. No, perché io cancello tutto, lui. Anche su WhatsApp, una volta che ho fatto, per esempio io WhatsApp l'ho utilizzato tutti tantissimi giorni come fratello. Per fratello che lavora, che fa i turni, eccetera, la notte. E tante volte rimango fino, anche fino alle 2 del mattino, chattando con lui su WhatsApp. Però magari o scrivendo oppure addirittura su vocale, no? Parlandoci. E allora lo utilizzo tutte le notti, però poi faccio ascoltando e cancellando, perché non ripeto, non mi voglio riempire il telefonino di troppe cose, perché non va bene, ecco, tutto lì. Per cui infatti ogni tanto, anche Graziano ogni tanto mi manda qualche cosa, perché dato per il troppo poi ci sono queste cose, ve lo dico, e io li cancello lo stesso, li guardo e poi li cancello. No, non tengo niente su WhatsApp con lui, cancello sempre tutto. Positivo, comunque questo non lo so se funziona poi. C'ha lo spinotto a 4, però c'ha i punti che entrano anche grossisti, di quelli antichi, bianco e nero col pulsantino rosso per parlare. Non so se lo... Taglio maestro, c'è cosa c'ha l'apparato di quel microfono? Ci manca il microfono a Giulio. Me l'avevano regalato insieme ad altri microfoni vecchi e niente, non so se tu c'hai questo apparato che senza microfono, c'ha 3-4 cose che sporgono grossetti, 4 minuti, c'ha uno a centro e poi sono messi a triangolo e sono lunghetti grossi, un po' grossetti. Lui è tutto bianco, la faiette antico, c'è il pulsante rosso e nero dietro. Ho capito, lo spinotto è cromato, così è. Non ho capito, che cosa mi hai detto? Lo spinotto cromato è. Sì, lo spinotto è cromato, sì, è grosso, è pesantuccio pure. Sì, ho capito. Sì, in effetti è un baracchino che ci vuole col microfono, ma ne avevo adattato un altro e già funziona lo stesso, però non è il suo originale. Qualche giorno ci vediamo e te lo do, te lo pulisci, te lo controlli, almeno ce l'hai originale, hai capito, ce l'hai originale, perché al limite ti cambi il cavo, perché è un po' vecchio, è vecchiotto, non so se funziona la capsula, questo non te lo so dire, puoi provare, se vuoi provare, capito, me l'aveva dato un amico, però erano tutti i microfoni vecchi che l'ho quasi detto, però questo non l'ho buttato, l'ho lasciato da parte, perché un giorno Claudio mi ha detto, no, dice questo, c'è il baracchino Giulio di quel microfono lì, e gli manca proprio il microfono suo, almeno c'è tutta la carcassa, la cosa, diciamo, là, il completo, il microfono. Un giorno ci vediamo e te lo do, Giulio. Ok, d'accordo lui, va benissimo, sì, va bene, d'accordo, ci vedremo. Avanti Marco. Eia, ciao Luigi, se ti stai spostando. Ok, ciao Giulio, io adesso mi dedico a questa cosa qui, poi cucino qualcosa. Ma mia non passa più la domenica, quando si sta a casa così, non passa più, tanto vale impegnarla a fare roba così. Bene, poi non lo so se entrerò più tardi, francamente, mi dopo ho mangiato, boh, vediamo. Almeno far girare i baracchini e sono fermi da un po'. Ah, poi peraltro WhatsApp l'avevo tolto anche perché dalle persone del baracchino sarà mesi che non arrivavano più messaggi, mesi. Vabbè, al di fuori del baracchino sì qualcosa arrivava, ma non è poi così indispensabile WhatsApp, né? Per me che lo uso veramente poco. Ok, va, beh, certo. Vabbè, lui, se stai chiudendo, allora ti saluto, dai, devi andare a, a dare una mano a tuo figlio. Ci vedremo un giorno, ci vedremo e così magari poi se mi vuoi dare quello ti ringrazio. Ciao Luis, alle prossime. Sì, oh Marco, ma WhatsApp al limite lo puoi sempre attivare quando vuoi, non è un problema questo. No, ma quello non va, cioè, tanto ripeto, io tutti i giorni lo utilizzo, tutti i giorni immancabilmente, perché mio fratello o che faccia il turno di giorno o che faccia il turno di notte, perché fa anche la notte, che fa dalle 4 a mezzanotte tante volte, e tante volte fa da mezzanotte alle 8 del mattino, e tante altre volte fa dalle 8 del mattino alle 4 di sera, tutta la mattinata, sempre, 8 ore continue, sempre, continuamente. E dunque, siccome fa il turnista, fa, prima non era così, ma adesso siccome l'azienda l'ha rilevata a un'altra società dove lavora lui e hanno cambiato il sistema di lavoro. Però prima Massimo si fermava a mezzanotte e la notte era sempre a casa, la notte, e invece adesso devono assumere altre persone, allora hanno stabilito questi turni e le fanno fare anche tutta la notte intera. Da mezzanotte alle 8 del mattino, oppure dalle 4 di sera alla mezzanotte, oppure dalle 8 del mattino alle 4 di sera. E fa questi turni qua, per cui quando è la notte, siccome si annoia perché non sa cosa fare, allora se faccio compagnia sia io, oppure il mio fratello, le mie sorelle, insomma ci sentiamo la notte tardi, anche fino alle 2 del mattino, tante volte, per cui non. Vai, ma poi tanto mille telefonate ormai non si pagano più con questi smartphone, quasi tutte le offerte sono con le telefonate, già paghi un fisso e telefoni quanto vuoi o quasi. Quindi certe volte invece di stare a mandare messaggini faccio prima a telefonare a una persona interessata, dire in un minuto quello che scrivendo, o anche a messaggi vocali singoli, direi in 5 minuti. Ma poi ho notato una cosa, quando chiedevo a qualche amico, mandami senza WhatsApp, mandami se hai foto, documenti, mandameli tramite email, non ne sanno usare email, lo sai, non sanno usare un'email, inviare una email. E ho detto, ma era la prima cosa che si imparava quando c'erano i normali computer. Capito, se non hanno WhatsApp non sanno mandare un messaggio, foto, documenti, video. Una volta quando non c'era né WhatsApp né Facebook, tutto tramite email si faceva. Mandare il curriculum tramite email, oh, vabbè, contenti loro. Comunque si diventano una malattia questa storia dei social, cioè vado sul tram e vedo tutto ragazzi e ragazze incollati, anche uomini e donne grandi, incollate allo smartphone, vai dal medico, stessa cosa, per strada stessa cosa, i bar stessa cosa, cioè un gruppo di donne, ragazze, ragazzi vanno al bar e invece parlare tra loro sono incollati, tutti e tre, tutti e quattro allo smartphone, sta diventando una cosa tipo drogami, no, a me non mi frega, non mi piace così. Non mi piace essere tempestato in messaggi a tutte le ore, a stare con questa cosa in mano. E vabbè, ognuno è libero comunque di insaponarsi la corda come più preferisce. Dunque l'avrei notata anche tu questa cosa, no? Dal medico, sui mezzi pubblici, sulle panchine, stanno incollati tutta la dì con questi messaggi, messaggini, messaggioni, è un incubo, guarda. Sì, certo, non l'ho stato sì, ma anche per strada, attraversando la strada senza stare attenti al traffico, attraversano così prudentemente col telefonino all'orecchio, ma quando mai ragazzi, poi almeno fanno ridere, cioè, sette persone, in una mano il telefonino e nell'altra la sigaretta, soprattutto con le donne, ci sono certe donne che io già voglio una sigaretta, figurati pure quando trovo una donna che sta fumando, a me mi dà fastidio proprio, io la giudico in una certa maniera, non male, sia ben chiaro, però secondo campo dove la donna non deve puntare il fumo, in poche parole, la donna deve essere pulita, no? Non puntare il fumo. E per me la donna che fuma punta il fumo, per conto mio, poi ognuno fa quello che crede, è ovvio. Stavo dicendo, sono in piedi a bar, io tutte le mattine salgo in città e vado lì al bar e lì a Pascoli, c'è tutti quanti a tavolino, in una mano il telefonino, nell'altra la sigaretta, fumando queste donne, alle 8 del mattino, ma dico io, una donna alle 8 del mattino cosa ci fa al bar? Io voglio sapere solo questo, cosa ci fa? Io parlo di donne giovanissime, giovani, anche di ragazze di 18-20 anni. Cosa ci fa? Io voglio dire, ma questi qui non ne hanno pulizie da fare a casa, cose da fare, boh, non lo so. Cazzo, mia moglie che esce dalla mente da casa non ha mai tempo, non le basta mai il tempo, anche se vabbè, la casa è grande, tutto quello che vuoi, ma non le basta mai il tempo. E questi invece sono già lì, se luce secche e fredde, lì a tavolino, al bar. Boh, io la verità, una persona del genere a me non piace. Una donna del genere, io posso capire, uno che è un pensionato, si va al pensionato, va, si prende il caffè, si guarda il giornale e poi sparisce. Non mi piacciono nemmeno gli uomini, quelli che rimangono tutto il giorno al bar, nemmeno quelli, basta ridare. Al bar si esce, si esce, boh, si beve il caffè la mattina e poi si esce. Poi naturalmente ci sono gli ubriaconi che si bevono bottiglie di birra di mattina presto, boh, come fanno a resistere? Ma che tipo di stomaco hanno quella gente? Non lo so, la verità. E ce n'è anche qua. Capito, stanno al bivacco, proprio al bivacco, tutto. No, a me non. Anch'io non sono così, io entro, consumo, poi mi nando. Caffetteria, perché sempre caffetteria praticamente. Vabbè, conta che se le ragazze sono molto giovani, dice già c'è mamma che pulisce, capito? Già ci sono i genitori che fanno le pulizie, che lavorano per loro, poi mi fregacciai a loro. Certo, se sono un po' meno giovani, o sono donne single, non ci metto bocca lì, no? Non te lo so dire. Poi vabbè, una alle 8 di mattina magari sta facendo colazione, almeno si spera, non credo che inizino con la birra alle 8 di mattina, se no è preoccupante. Ah no, tu vedi addirittura delle ragazze, le donne, in tutte le età, sedute a tavolino anche con la bottiglia della birra, la bottiglia grande, non è a dire il bicchiere, la bottiglia grande della birra, ma io dico io, io ho una tremenda età, oppure te li vedi giocando alle macchinette lì, cosa è l'altro mondo, guarda, a me sinceramente una persona del genere, io la rinnego proprio, non mi piace, non è possibile che una donna, soprattutto quelle persone che vivono di lavoro, perlomeno di lavoro del marito, o chissà di che, o addirittura di assistenza, e poi te la ritrovi lì giocata alle macchinette, con la sigaretta in mano, con il bicchiere della birra, ma quando mai? Vabbè, ognuno è padrone di fare quello che crede, per carità, si fa che beato. Però a me una persona del genere, io non mi piace proprio, ecco, in una maniera più assoluta. E sa cos'è Giulio, vabbè, sono passate varie generazioni dai tuoi tempi, quando eri giovane tu le ragazze non stavano in bara per birra, o tantomeno a fumare magari, adesso ricordati ogni generazione peggiora, ogni generazione peggiora e quindi... Oh, non è solo da noi, praticamente un tipo che viaggia, che ha gli sponsor, no? Quindi i viaggi sono pagati, no? Che fa video su YouTube, ha visto un ragazzino di 13 anni, non so se fosse in Norvegia o in Islanda, no? Era in un fast food, si è messo in un angolino un po' più appartato con un amico, avrà avuto 13, massimo 14 anni, si è preparato la striscia di cocaina e se l'è aspirata lì, al fast food, capito, un po' lontano da sguardi indiscreti, a 14 anni. Vabbè che in Islanda lì Mamma mia, cioè vivere lì in Norvegia e Islanda, poi lo sai che anche nei paesi scandinavi c'è un alto numero di suicidi, anche perché lì praticamente c'è neve quasi tutto l'anno, c'è una vita un po', non lo so, non so come definirti, Giulio, mi... Poi di sera non v'è un'anima in giro, che lì cosa puoi fare? C'è un freddo da, a parte l'estate c'è un freddo da ballare in strada. E anche lì in questi paesi molto moderni, molto all'avanguardia, molto sviluppati, però il problema della droga c'è come noi, se non di più. E invece gli uomini adulti, gli uomini, cioè non ragazzini, bevono, bevono forte, bevono forte. Anche perché qui la vita è un po' così, cioè, guarda che stare in un paese dove ci sono quasi nevi e ghiacci e freddo eterno, a parte l'estate, è brutto, me, è un po' alienante, per me sarebbe alienante. E noi siamo abituati al clima mediterraneo, quindi il sole, insomma, il mare, eccetera. Lo so, vabbè, comunque, facciamo come vogliono, ognuno di noi naturalmente le sue abitudini, questo è ovvio. Io devo essere sincero, di vizi non ne ho, di nessun genere, né di fumare, né di bere, no, non ne ho mai avuto e non ne avrò mai. Perché è un uomo, ci può anche stare, e beve in maniera alimentata, che si sa anche controllare, e certo, se poi uno si ubriaca, quello è uno schifo di persona, quello sono persone che fanno veramente schifo. Sì, può capitare qualche volta che qualcuno sia un po' più anticcio, così magari del solito, però non deve essere un'abitudine, è una maniera più assoluta. Ma c'è gente che vive dalla mattina alla sera inchiodata al bar. Poi dico questo, ma intanto si è lì per elemosinare magari un bicchiere di birra o una sigaretta all'amico, perché se tu stai tutto il giorno al bar non la vuoi mai, e questi soldi la vuoi tutti per poterti mantenere sempre fitto al bar dalla mattina alla sera tutti i santissimi giorni, come quelli che vanno ad esempio al circolo. Io ad esempio molto spesso passo via a Rosello, praticamente quasi tutte le mattine, no? E lì c'è un circolo, tu non vedi altro, sempre le solite persone, tutta gente del matrimonio praticamente, ma sta sempre lì, inchiodata in quel circolo, la mattina presto, tu poi ti fai quattro passi, ti fai il giro del mondo, mi torni a passare verso l'uno per rientrare a casa e loro sono sempre lì. Ma come fa uno a stare sempre lì al circolo continuamente, lì? È sempre col bicchiere della birra in mano o il bicchiere del vino. Come fanno a vivere così questa gente? La verità non riesco a concepirlo. Lo so. Anch'io te l'avevo raccontato, forse. Io me ne andavo al mare tarda mattinazza, no? E vedevo qualcuno tipo ventenne lì con la tazza in mano, un bicchiere in mano, no? Stavo al mare, bello, tutto il giorno, poi tornavo fine serata e magari vedevo la stessa persona, sempre lì sulla soglia, col bicchiere di birra in mano, a 20 anni. Eppure io ti dico, non facevo cose straordinarie a 20 anni, ma non me ne stavo nemmeno rinchiuso nei bar, ma manco per le scatole. Per carità, vabbè, ognuno trovate libero di saponarsi la corda come più preferisce. E per quello non ho voluto prendere vizi né del fumo né delle bere, perché poi a perderli vizi non riesce a perderli, non riesce a perderli, anche per questo video poker, questo, e anche quello ha rovinato un bel di gente, e lo Stato dice, può dare quella cosa che scrive, può dare assuefazione, come che il disclaimer che mette, se ne frega lo Stato, basta che incassi, lo Stato è come la mafia, l'ho detto tante volte, è uno schifo, usa metodi diversi, ma fare i soldi, fare i soldi, fare i soldi. Beh sì, lo so, purtroppo è così. Vabbè, che vogliono che ti dica, ma... vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. C'è qualcuno che sta ascoltando che vuole entrare? Avanti il fischio. Parla la Lecce. Avanti il fischio. Questo passa di giornata e questo è col baracchino qui ascoltando. Cosa ascolti? Ma quando non c'è nessuno c'è poco da ascoltare. E non parla mai, Oh, ma butto! Boh, è da solo fischiare. Ti è venuto a te che un muto possa fischiare o Marco? Non lo so, forse sì. Sarà quello, sarà così. Certo. Il muto non ha l'uso delle corde vocali, ma basta soffiare attraverso i denti. È fatta. Anche per il fumo, si sa da tanto che fa male a lungo andare, poi c'è chi è più resistente e chi meno resistente. Allora abolitelo, è inutile che vietate di fumare nei bar, nei locali pubblici, ai giardini, nelle spiagge. Allora vietatelo, toglietelo dalle scale, no, che lo Stato ci perderebbe miliardi dal monopolio per le sigarette, miliardi ci perderebbe. Quindi allo Stato non gliene frega che ti viene il cancro, basta che loro mettano quelle foto sui pacchetti, no, con il moribondo, e la loro sporca coscienza è pulita, capito? Poi vanno a dire che la marijuana fa male, quindi c'ha nei loci, se usata moderatamente, a parte che ha effetti terapeutici, fa molto meno male di sigarette. Naturalmente tutti gli eccessi fanno male. Cioè, se tu bevi anche un bicchierino di vino a pranzo non succede niente, ma se bevi litri di vino ogni giorno fa male. La stessa cosa è il cosiddetto spinello, marijuana. Se ne fumano ogni tanto fa niente, certo se li usi come le sigarette, 20 al giorno ti mangia tutti i neuroni del cervello, capito? E va bene. Così è. Così è, se vi piace. Che glielo diceva? Non me lo ricordo. Vabbè, facciamo come credono, facciamo tutti come più ci piace. Per cui, che ne so, le ho messe in luce, quasi quasi faccio una luce. L'ho fatto questa mattina, ma siccome ho lavorato a casa stamattina, e anche stasera, stamattina nel portone d'ingresso, stasera col BD, allora quasi quasi mi faccio una rinfrescatina e così facciamo ancora tempo in un altro modo anche. Io. E tu ancora devi pranzare o hai cambiato abitudini? No, le brutte abitudini sono rimaste tali. E quindi, vabbè, te l'ho detto, è tutto proporzionato, dormo da tardi quando dormo, quindi vabbè, io mi dedico alla cucina, dai, sentiamo Giulio. Io non dico che accenderò tutti i giorni a vedere se c'è qualcuno, perché poi non lo faccio. Io non sono costante, capace che stia un mese senza accendere. E quindi dai, un giorno ci sentiremo, alle prossime, forse sia domani come sia, fra un mese e tre mesi, dai, buon proseguimento di serata, buon tutto e sentiamo alle prossime, ciao Giulio, buona serata, ciao. Ok, ciao Marco, grazie per la chiacchieratina, sì, ci sentiamo eventualmente. No, io ripeto, tutte le sere l'accendo, anche perché voglio che cambi un pochino tutti i giorni questa radio, perché è meglio, no? Però qualche volta accendo la mattina, ma ripeto, 5 minuti guardo se c'è qualcuno e poi se non c'è nessuno chiudo subito, non sto lì a prendere tempo davanti alla radio o ci provo. Va bene Marco, ci sentiamo alle prossime, dai. Buon pranzo allora quando lo farai. Io adesso mi faccio la doccia e così, e poi scendo giù a fare compagnia a mia moglie. Ciao Marco, alle prossime, grazie ancora per la chiacchierata, ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao.